Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Facciamo un piccolo esperimento in diretta per introdurre il tema di stasera. Vi facciamo sentire due brevissimi audio. Ecco il primo. Allora, buonasera Alessia Carrettini, esperta in acustica ambientale della rete di imprese DP Acustica. Buonasera a tutti. Allora, buonasera, che cosa abbiamo sentito? Immaginatevi il vostro vicino di casa che suona la batteria. Nella realtà sono 110 decibel. Che è il volume tipico dei concerti, tra l'altro, no? Più o meno. Esatto. Il suono che avete sentito siete voi nella vostra camera che state cercando di riposare, okay, di fare. E il volume più o meno che nella realtà c'era, era 60 decibel. Allora, adesso sentiamo che cosa succede invece in una stanza ben isolata acusticamente. Ecco, abbiamo sentito, o addirittura forse non siamo riusciti a sentire niente, se qualcuno stava guidando la macchina non so se è riuscito veramente poi a sentire qualcosa. Che cosa è cambiato tra la prima e la seconda stanza? Perché la risposta qui è sorprendente. La stanza che noi abbiamo creato è una stanza che ha la stessa stratigrafia di materiali che c'è fra la prima situazione e la seconda situazione. Mi spiego meglio, questo è un esperimento, sì, reale, che è stato fatto, in cui c'è un cubo, il cubo acustico, in cui nella stanza centrale si emette il rumore, come abbiamo detto prima, 110, sì, decibel, quindi come in un concerto, e vi sono due stanze affiancate. Nell'una avete sentito molto quello che succede nella stanza centrale. La seconda stanza, ovvero il suono che avete appena sentito, non sentite praticamente niente. E l'unica differenza, sì, non è dei materiali, perché la stratigrafia è la medesima. Esattamente la stessa. I materiali sono i medesimi. La stratigrafia, lo spessore è lo stesso. L'unica differenza è stato l'aver curato i ponti acustici da una parte, dove non sentivate, eliminandoli possibilmente, le trasmissioni laterali, sì, e le trasmissioni anche nei buchi fatti sulla parete. Per esempio le prese della corrente, no, trasportano i suoni attraverso palazzine intere, se sono fatte male. Esattamente, o le tubazioni, certo, si inseriscono soprattutto nelle costruzioni moderne, dove tutto è un po' concentrato, si inseriscono tubazioni all'interno delle pareti di separazione, senza rafforzare quel nodo critico, per cui non diciamo non bisogna farlo, ma ogni intervento che si fa sulle pareti di separazione deve essere guardato anche acusticamente. Ecco, insomma, c'è un problema di competenze. In pratica gli stessi materiali, le stesse stratigrafie, ma se la posa non tiene conto di certi principi, insomma, l'isolamento acustico che si ottiene è minimo. Invece si può ottenere già un ottimo isolamento. Ecco, ricordiamo che il rumore oggi è una delle fonti di disturbo più importanti nella nostra società. Ci sono dei dati, per esempio, sugli effetti della salute, sullo stress, che sono ben noti, ma ci sono poi le ricadute sui rapporti sociali. Le maggiori cause di stress e anche di litigio, per esempio, nei condomini sono dovute appunto ai rumori, i calpestii, il vociare, la televisione piuttosto che lo stereo, gli impianti rumorosi, lei ne stava parlando, tipico è lo sciacquone, no? del water, per cui se all'ultimo piano uno tira l'acqua se ne accorgono tutti gli abitanti del condominio. Però delle norme esistono, vengono rispettate? La norma, la legge che parla di questo è il famoso DPCM 512/1997, che parla dei requisiti acustici passivi degli edifici. Quindi ci sono dei limiti da rispettare dipendentemente dalla categoria dell'edificio, quindi residenziale, alberghiero, e a seconda del parametro di cui si sta parlando. Quindi se si sta parlando di isolamento di pareti piuttosto che del calpestio, piuttosto che gli impianti, come ha detto lei prima, sullo sciacquone. Il grande Ma se venissero, problema, quello che voglio dire, se venissero rispettate le norme che sono previste oggi, noi vivremmo nella stanza rumorosa o nella stanza silenziosa? Ovviamente nella stanza silenziosa. E non servono norme più restrittive o materiali incredibili, bisogna rispettarle e già vivremo in un discreto silenzio, è questo che mi sta dicendo. Assolutamente, okay, sì, ti basterebbe imparare a non aver paura di questa materia che è l'acustica e di questi limiti imposti, ma rispettarli. Applicarli. Esatto. Tra l'altro si può fare questa esperienza in questo cubo acustico, si va alla Fiera di Bolzano, è stato esposto lì la prima volta in occasione di Clima House, ma ci saranno altre occasioni, giusto? Esattamente, questo cubo è stato realizzato per quell'occasione, è un'installazione fissa per il momento e nel corso dell'anno verranno svolte delle giornate o in occasione di altre fiere verrà riattivata la musica all'interno e si potrà fare questa esperienza. Che è abbastanza sorprendente. Molto sorprendente, sì. Grazie, grazie Alessia Carrettini. Arrivederci, grazie a voi, buona serata. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.